Allora, come vi trovate, Tione? Bene. Bene? Cosa ne pensate degli adulti? A volte sono gentili, a volte no. Quale? Secondo voi gli adulti cosa pensano di voi? Di voi. Di noi ragazzi. Cioè, bravi, che ragazzi. Siete bravi e così. Sì, voi siete giovani, giusto? Sì, però pensano anche degli altri così.